Salve a tutti, da Bernardo Parrello, dagli Stati Uniti, nel Southwest New Mexico, ancora innevato, ma con temperature un po' più calde per fortuna. Stavolta per l'anteprima degli articoli più interessanti sul numero di febbraio 2007 di Wired Magazine, in queste ore e giorni in circolazione qui negli Stati Uniti, a partire dalla cover story Answering the Big Questions. Di che cosa è fatto l'universo? Perché gli umani non possono rigenerare i propri organi? E il tempo è forse un'illusione? E altre domande di questo tipo sul linguaggio, la gravità, la forza di gravità e faccende scientifiche, altri misteri scientifici, anzi. Cover story che vedo già pubblicata oggi sul sito di Wired News, che va ricordata è un'entità separata da Wired Magazine, anche se ne ospita spesso i rilanci. Dove si nota anche un cambiamento che riguarda sostanzialmente la rivista e riportato un po' nella testata di Wired News, ovvero i caratteri, i font che sono stati modificati, il fa leggermente più piccoli, futuristi, meccanici un po', e è qui con la stessa grandezza. E ancora più interessante è il cambiamento della rivista, del cartaceo, per chi ama ancora maneggiare per le mani riviste, libri, quindi la materia anziché soltanto i bit. La carta non è più patinata super lucida, ma un po' opaca, un po' più pesante ed dà un effetto ancora un po' più caldo allo sfogliare la rivista, anche se ovviamente abbondano come sempre gadgets, pubblicità varie, ma l'effetto è sicuramente migliore, almeno lo preferisco. Riguardo gli articoli sul digitale specificamente, c'è la storia dell'arrivo di Jost, la nuova creatura appena lanciata e di cui si è già parlato online dagli ideatori prima di Casa e poi di Skype, e quindi c'è un po' la loro storia e quali sono gli obiettivi di Jost, ovvero la Internet TV usando i circuiti P2P e sistemi sempre integrati e collettivi per portare la Universal TV. Leggo un breve passaggio. La visione, la TV universale che gira su una piattaforma ibrida P2P. Milioni di PC in network fortificati con i tradizionali server video. Gratis per gli ascoltatori, per chi guarda tramite i rispettivi player. L'interessante è da dire appunto che i due creatori, Zennstrom e Fries, non amano particolarmente il cosiddetto user generated content. Infatti una parte dell'articolo spiega che questa scelta in parte è tattica, è un modo per differenziare la nuova creatura da YouTube. Ma hanno anche imparato, in maniera dura, hanno anche subito i rischi di lasciare al pubblico, di consentire al pubblico di fare l'upload di materiale protetto. Quindi in pratica ci si riferisce a casa, ovviamente, il noto P2P Network, per il quale i due hanno dovuto sborsare ben 115 milioni di dollari per chiudere la partita con le major americane, perché appunto smettessero, archiviassero le querele contro i servizi di file sharing. Quindi Jost non vuole di nuovo entrare in quest'ambito e vuole al contempo differenziarsi da YouTube o gli altri siti di video sharing. Vedremo come andrà a finire. Intanto un'altra storia che dovremo seguire per capire come andrà è quella di Yahoo, che si sta preparando per riconquistare lo spazio perduto rispetto a Google, soprattutto nell'ambito delle inserzioni, della pubblicità. L'articolo è centrato su Terry Semel, CEO di Yahoo, il quale nell'estate del 2002, sì, estate 2002, fece una prima offerta per acquistare Google, allora alle prime armi, offrendo 3 miliardi di dollari. Ovviamente Google rifiutò e quindi poi sappiamo com'è andata, ma è sintomatico che allora ci fosse stato già questo tentativo di inglobare questa nuova realtà. L'articolo sostanzialmente delinea, oltre al modo di lavorare poco consono all'ambiente online, nel senso che mentre a Google sono gli ingegneri che guidano, a Yahoo sono è il marketing che guida, e questo rispetta la provenienza di Terry Semel, che viene appunto dalle major di Hollywood, ha lavorato con queste grandi corporation cinematografiche per molti anni. Quindi un po' anche l'articolo dà quasi la responsabilità a lui di alcune mosse passi falsi, ma il punto è che il 5 febbraio sembra verrà lanciata la nuova strategia di Yahoo, ovvero Progetto Panama, da molto tempo in lavorazione. Ne leggevo appunto alcuni articoli oggi online, anche un lungo lancio da Reuters al riguardo. Vedremo come andrà a finire questa storia. E da vedere un'altra cosa, un altro progetto che si sta rilanciando, ovvero la famosa MTV, che proprio usando gli avatar tridimensionali, ripresi anche dallo stile di Second Life, si prepara al grande ritorno online dopo essere stata messa in sordina dai vari lanci del videoblogging, lo stesso YouTube, i video musicali online. Quindi dovremmo assistere probabile al ritorno di MTV online. Altri due, questi come articoli, gli articoli sostanziali di Wired di febbraio. Alcune noterelle sparse: per chi non lo sapesse, sta avanzando lo smishing, ovvero il phishing via text message, ovvero gli SMS ricevuti sui cellulari che invitano ad andare su alcuni siti web per poi porre le proprie informazioni personali, e quindi poi installano spyware sui computer e cose di questo tipo. Uno studio di registrazione aperto nello Iowa da due ragazzotti di belle speranze, i quali registrano i concerti rock di bande indipendenti senza poi assolutamente passarli ad alcun filtro digitale, ma direttamente su nastro da 3/4 di pollice, trasferito poi in MP3 e messo online. Quindi il vantaggio è vantaggio. L'idea è usare internet per distribuire musica indipendente senza rimasterizzarla, senza alcun filtro, senza i Pro Tools, senza i vari gadget digitali che vigono oggi nell'arte e nella musica. È un'idea non male in questo senso, perché l'umanità, lavoro umano, olio di gomito e creatività fanno sempre bene a tutti. E quindi per ora direi che basta qui. Per Wired Magazine di febbraio 2007. Un saluto a tutti da Bernardo Parrella, dagli Stati Uniti. Bye.